Allora, professore Zingales, secondo lei è giusto il vanto di Monti che gonfia le gote e dice che lo spread è sceso per merito suo? Beh, diciamo che il maggior merito sicuramente è della Banca Centrale Europea. Se ha un governo affidabile, sarebbe stato impossibile per la Banca Centrale Europea intervenire. Quindi, in certa misura, Monti ha un merito, il merito di essere affidabile per i partner europei. Però, come hai ricordato tu precedentemente, Monti è entrato nel novembre dell'anno scorso e a luglio gli spread erano ancora molto elevati, e quello che ha cambiato il mondo è stata la frase molto importante di Draghi, dicendo che lui avrebbe fatto whatever it takes, e questo nel linguaggio dei banchieri centrali è una frase fondamentale per dire che la banca centrale non si risparmierà, ed è l'unico modo per tranquillizzare i mercati in situazioni di tensione come quella che abbiamo visto.